Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Vi ricordo subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it, il nostro sito radio24.it. Potete dialogare con me all'interno del blog, si chiama Guardie o Ladri, lo sapete, così come potete anche scaricare tutte le puntate di qualunque trasmissione via podcast, abbonarvi anche, insomma, il sito è stato arricchito anche per questo. Dicevo prima della mail, allora ricorderete che alcune settimane fa noi abbiamo dedicato due puntate sollecitati da alcuni lettori che avevano avuto delle disavventure di non poco conto con dei fisioterapisti che in realtà tali non erano, cioè non erano abilitati, non avevano superato né prove né esami, non erano iscritti a nessun albo professionale, insomma erano dei cialtroni il cui rischio poi è andare a incidere sulla salute delle persone. Dopo quelle due puntate abbiamo ricevuto una bella lettera dal presidente del Comitato Nazionale dei Massofisioterapisti. In sostanza questa lettera dice: grazie per l'attenzione, ci siamo anche noi. Noi chi? I massofisioterapisti, appunto, anch'essi abilitati a, come dire, alleviare quelle che sono le pene di chi soffre. Anche loro si formano in maniera professionale e triennale, anche loro sono riconosciuti dal Ministero della Salute, in buona sostanza anche loro non soltanto sono degni di essere conosciuti, ma hanno diritto di parola. Perché? Perché anche nel loro campo gli abusi sono moltissimi. Ho deciso così di dedicare anche in questo caso due puntate, ascoltando innanzitutto la testimonianza di Roberto Cirelli, che è appunto il presidente del Comitato Nazionale dei Massofisioterapisti. Buongiorno Cirelli. Buongiorno a lei. E poi ascoltando in queste due puntate la testimonianza di una persona che purtroppo ha avuto a che fare con degli abusivi, ed è Ilaria da Lecce. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a lei, salve. Mentre invece domani proseguiremo la nostra chiacchierata con una parlamentare, un onorevole della Lega Nord, Laura Molteni, che ha preso a cuore questa vicenda, e con Antonio D'Angelo, che è responsabile dell'Associazione dei Massofisioterapisti per la Campania. Ma cominciamo da lei, Cirelli. Allora, lei ci ha scritto questa lettera dicendo: ci siamo anche noi, siamo migliaia e purtroppo anche noi ci scontriamo con gli abusivi. Ma che differenza c'è tra voi e i fisioterapisti? Innanzitutto. Allora, i fisioterapisti hanno una formazione universitaria, triennale universitaria, mentre noi abbiamo una formazione professionale sempre triennale. E tant'è vero che la nostra figura risale al 1961. Quindi poi nascete prima dei esatto, fisioterapisti, nel senso del riconoscimento giuridico e normativo. Esatto, questo nel 1961, che poi è stato rimodificato nel 1971 con la legge 403 del 1971, con un mansionario ben preciso che risale al 1976. Quindi tanto voi quanto i fisioterapisti, ciascuno per le proprie competenze, ciascuno per il ruolo che svolgete, siete abilitati a, come dire, scusi il gioco di parole, tentare di riabilitare persone che problemi hanno con la salute. Ma quanti siete in Italia? Siamo più di 40.000. Beh, insomma, un bel pacchetto, un bel numero, un bel pacchetto di mischia, direi. Esatto, e fra l'altro è nato appositamente il comitato proprio per difendere il discorso del cittadino, del pubblico cittadino, su proprio il discorso degli abusivi. Ecco, ma se io sono un cittadino, Roberto sì, Galullo, e voglio sapere se il massofisioterapista al quale mi rivolgo è un cialtrone, o se è veramente, ha svolto la sua formazione professionale, è riconosciuto dal Ministero della Salute, come faccio? Dovrebbe entrare, questo appositamente è il problema che possiamo trovare su tutto il territorio nazionale. Perché ripeto, il comitato è nato assieme a un'altra associazione, che è l'Associazione Italiana Massofisioterapisti, dove il presidente è il dottor Nicola Ferrara, è specializzato proprio e laureato, dove ha fatto i suoi studi proprio sul discorso della difesa dell'ammalato proprio a livello europeo, sulle problematiche dell'ammalato sia a livello di sì, ma lasciamo perdere gli studi, lasciamo perdere gli studi, perché non metto in dubbio che tutti voi avete studiato. Ma io come faccio a sapere se lei è un cialtrone o no? Niente, entra nel mio studio e vede se io ho un'autorizzazione della SL. Quindi io posso pretenderla? Quindi io posso pretendere? Oh, benissimo, benissimo. Quando io apro lo studio io faccio una richiesta, sì, chiedo alla SL, chiedo al comune, e però la cosa più importante, e questo è un piccolo neo o grosso neo da quanto riguarda il Ministero della Salute, che non hanno pubblicato la nostra figura come figura sanitaria sul sito del Ministero della Salute. E va bene, poi questo qui ne parleremo, ecco, questo poi ne parleremo con l'onorevole Molteni. Esatto. Però voglio dire, ma il cittadino, però, lei ci ha spiegato, io devo avere l'autorizzazione, va bene, però in Italia è il paese dei furbi, no? Basta un locale e uno si inventa qualunque professione, ma il cittadino che si rivolge al tizio o al caio, sì, come fa a sapere se quello è un massimo fisioterapista? Deve controllare che questo, che questa persona a cui lui, a cui cittadino si rivolge, sia in possesso con il suo diploma ben appeso della legge 403,1 del 1971. Oh, benissimo. Quindi ci deve essere appeso, comunque può pretendere il cittadino di farsi mostrare il suo certificato di abilitazione professionale. Sentiamo a questo punto quali sono gli effetti devastanti che può avere rivolgersi al, cioè che può avere il fatto di rivolgersi ad un abusivo. Ilaria da Lecce, ci racconti la sua esperienza? Sì, ecco, io vi porto la mia testimonianza oggi, in quanto soffrivo di una semplicissima cervicalgia, mi sono rivolta ad un signore noto come riabilitatore, che poi in realtà si è scoperto successivamente tale non fosse. Dopo un trattamento, così come lui lo definiva, ho cominciato ad accusare forti disturbi dell'equilibrio, nonché mal di testa e una serie di problemi che non le sto qui ad elencare. Certo. Ho contattato successivamente un fisiatra, il quale mi ha diagnosticato un forte trauma dovuto proprio a quel trattamento fattomi appunto da questo cialtrone, ciarlatano, come vogliamo definirlo. Certo. E così mi ha prescritto un protocollo terapeutico estremamente dettagliato e molto lungo. E solo dopo ben 6 mesi di terapia sono riuscita a risolvere il mio problema, grazie appunto all'aver fortunatamente incontrato un massofisioterapista, che oggi ringrazio ancora, che ha risolto il mio problema. Ecco, mi scusi, la verità. Sì. Le aggiungo anche questo, nel momento in cui sono venuta a conoscenza dell'esistenza di questa figura del massofisioterapista, ero molto titubante, perché ovviamente dopo una disavventura di questo genere pretendevo una certificazione delle competenze, dell'abilitazione io questo qui volevo chiederle, ma avendo ascoltato quello che ci diceva Cirelli, cioè del diritto del cittadino di sapere con chi ha a che fare, lei ha avuto difficoltà poi a chiederlo nel momento in cui l'ha chiesto, oppure mi sono rivolta direttamente alla fonte, ho contattato il ministero che mi ha personalmente risposto e mi ha certificato la competenza di questi professionisti abilitati che operano appunto su prescrizione medica, sono stata rassicurata e ad oggi devo ringraziare queste persone, perché io ho risolto questo problema. Sono una ragazza giovane, lavoro davanti a un terminale e una semplice cervicalgia e un trattamento di questo genere, lei può ben capire quali serie di conseguenze è andata a assolutamente causare. Ecco, volevo chiedere questo qui, ma lei è una persona che noi abbiamo preso come purtroppo, come dire, spia di un malessere più generale, ma lei ha conoscenza anche di altre persone che nella sua città o comunque i suoi amici, insomma, che si sono rivolte a persone sbagliate? Quanto è diffuso, in altre parole, secondo lei il fenomeno? Assolutamente sì, il fenomeno è molto diffuso, anche perché le dico, il signore che io chiamo così oggi, perché non posso chiamare assolutamente terapista, ecco, mi è stato segnalato da persone di mia conoscenza, quindi persone note, e il cittadino non ha l'informazione oggi. Assolutamente. Oggi. Questa allora, è la verità. Certamente, magari per risparmiare 4 lire ci si rivolge alla persona sbagliata. Devo dire, da questo punto di vista, che domani cercheremo con l'onorevole Molteni di capire quali sono proprio questi buchi normativi, perché visto che sono così tanti massofisioterapisti in Italia, forse sarebbe il caso che il cittadino possa conoscere in maniera inequivocabile chi ha affrontato e superato tutti i percorsi di abilitazione professionale. Allora, io ringrazio innanzitutto la nostra radioascoltatrice Ilaria da Lecce, Roberto Cirelli, che è presidente del Comitato Nazionale dei Massofisioterapisti, e vi do appuntamento a domani ancora con questo tema, non prima di aver ringraziato in regia Carmelo Lauricella e in studio Elisabetta Fusconi. Da Roberto Galullo una buona giornata.